Gianni Giorgio, segretario generale dell'FNP Torino. È preavvisato, preavvisa. Si prepari. Buongiorno a tutti. Cerco di sintetizzare nei 10 minuti due concetti fondamentali, uno sull'organizzazione interna e uno sulla nostra missione politica. Premesso questo, dico ringraziando anche Listello e la precedente segreteria, abbiamo fatto la staffetta recentemente, e Vespasiano prima, di avere realizzato, si parlava prima di riorganizzazione, una intensa ristrutturazione della nostra categoria Torino-Canavese. Abbiamo fatto i compiti a casa, diceva Monti una volta, abbiamo, e hanno fatto soprattutto quelli che sono stati prima. Noi cerchiamo di consolidarli, in che modo i compiti a casa, che vuol dire tanta e tanta risorsa in più da dare alle zone e al territorio. Prima di tutto noi come la segreteria stessa siamo passati da 5 a 3 componenti come recitano i regolamenti, da 15 leghe che c'erano precedentemente siamo passati a 9 zone e quindi da 45 segretari di lega a 9 coordinatori. Questo non vuol dire che è mancato il lavoro sul territorio e la possibilità di utilizzare i nostri soprattutto volontari, chiamiamoli così, oltre che collaboratori. Vuol dire avere 300 e oltre collaboratori che lavorano nelle 35 zone della FNP, in parte condivise con la CISL, in parte soltanto FNP, Torino e Canavese, e ben 58 recapiti, quindi 300 e oltre persone, in gran parte non retribuite, perché sono puramente volontari, in grande collaborazione con l'Anteas. Boschetto ricordava ieri qual è stato il lavoro che abbiamo fatto insieme con la collaborazione di FNP territoriale. Abbiamo realizzato questa squadra e abbiamo ovviamente risparmiato sulle risorse impiegate. La domanda a Rosina e a Gigi, che sono qui presenti, con cui ragioniamo. Rosina ha dato ieri nella relazione ottimamente la rappresentazione della situazione e la volontà di andare tutti verso la riorganizzazione. Credo, descrivendo le cose di prima, di aver fatto i compiti correttamente. Non abbiamo neanche applicato, non voglio esagerare adesso, ma le tabelle sulla retribuzione della segreteria, siamo al di sotto delle tabelle di regolamento. Questo è uno sforzo. Qualcuno ricordava ieri, prima paghiamo lo stipendio ai collaboratori e ai dipendenti, poi dopo pensiamo ai nostri. È un principio però da applicare a tutti i livelli dell'organizzazione. In che senso? Alla conferenza organizzativa Riccione, Cisli in testa, ma anche FNP l'ha condiviso, si parlava del 70% delle risorse al territorio. Non ne voglio fare una questione statistica, se non fosse il 70% non voglio già mediare subito, ma non è questo il problema. Voglio capire se, essendo il 49% delle risorse che su 100 euro che ci dà l'iscritto come tesseramento annuale arrivano direttamente nel territorio per fare tutte le cose che abbiamo descritto prima e che sono l'essenza per l'organizzazione, si può fare uno sforzo perché dal 49 si passi a una cosa che sia, non dico il 70%, visto che mi pare che quando si dicono delle cose in assemblee così importanti come un'assise generale nazionale bisogna poi rispettarle. Io feci anche, siccome sono un po' pistillo, vi conoscete, un mail ai segretari confederali, mi hanno risposto, è così, come dici tu, su 100 euro che entrano, 70 devono andare al territorio, il resto vale al nazionale. Non è così, non è così. Già partiamo dal 29% che va alla confederazione. Io sono sceso da una vita, ho fatto anche il confederale, mi sembra però, rispetto alle categorie, tutte le altre che danno il 20%, che sia un po' esagerato. Perché una volta, 40 anni fa, era comprensibile perché la FNP era una struttura molto, come dire, di rappresentanza. Adesso la FNP presidia 35 sedi dove noi facciamo l'accoglienza e i servizi, 58 recapiti dove c'è soltanto la FNP, voglio vedere se c'è bisogno ancora di dare quasi il 30% alla Confederazione. Noi tra l'altro abbiamo accordi con la Confederazione che facciamo insieme a suo tempo dall'altra parte, che garantiscono anche qualcosa che la stessa confederazione ci restituisce per fare l'accoglienza. Vuol dire che nella ripartizione qualcosa è necessario fare anche con la CISL. nella ripartizione interna, lo sforzo, la faccio breve perché avete capito benissimo, lo sforzo che abbiamo fatto non solo a Torino sicuramente, nei territori, deve essere fatto a tutti i livelli, redistribuendo risorse e competenze dal nazionale al regionale, dal regionale al territorio. Non sto a spiegare perché è essenziale, guardate che se il tesseramento non lo si fa sul territorio, non lo facciamo da un'altra parte, non lo facciamo da altre parti. Se io devo investire per aprire un nuovo recapito e so che il tesseramento di quel recapito mi rende soltanto il 49% del tesseramento costruito, non riesco a pagare il gas, luce e riscaldamento di quel recapito. L'ho messo in termini molto pratici perché per capirci bisogna essere diretti. INAS e altri servizi. Una battuta, ieri abbiamo applaudito, io compreso, il segretario generale Alessio Ferraris, che ci ha detto quelli che vengono a fare i servizi INAS, se sono iscritti non pagano nulla, risottolineo, se non sono iscritti o si iscrivono oppure fanno un versamento. Il bonifico mi crea qualche mal di pancia, perché la vedo molto complicata la cosa. In altri patronati fanno pagare un contributo volontario. Non mi dispiacerebbe questa modalità, c'è una questione di fiscale, di tutto quello che volete, di delicatezza, però quanta gente viene ai servizi, in particolare all'INAS, si trova, perché è anche un buon servizio molto spesso, soddisfatta, ti chiede se c'è bisogno di dare un contributo per il servizio che mi hai fatto. Noi oggi non abbiamo neanche la possibilità di fargli dare quel contributo che vogliono versare volontariamente. Allora, che sia un bonifico o che sia un contributo dato, come quando facciamo la classica sottoscrizione tra iscritti e non iscritti, venga bene il discorso chiaro. Chi è iscritto non paga nulla e deve essere così. Chi non è iscritto per avere il servizio deve pagare. Al CAF invece paghiamo tutto, tutti. Cosa si può fare? Onestamente non lo so. Perché avendo gestito tanto tempo anche i servizi, gestito, collaborato con chi fa i servizi, la cosa è complicata. C'è l'idea che condivido della FNP nazionale e regionale, della, adesso che parlano di soldi si fa discutere una cosa. Adesso, ritorniamo a una cosa che non è soldi, è governance, si chiama adesso, la holding. So che ci rispondono che non è possibile farlo perché una è un istituto nazionale assicurazione sociale, l'altro è una vera e propria società. Nel frattempo che si discute di come fare la holding, facciamo il coordinamento governato dalla CISL. Non voglio farlo io, certamente. A tutti i livelli, nazionale, regionale e territoriale, vuol dire che c'è un comitato di coordinamento dove in primis governa la CISL locale, ci deve essere la FNP, perché ricordavo prima quanto ci mette la FNP rispetto a queste cose, vuoi anche la TES, no? No, c'era. E poi i servizi, INAS e tutti a di consumo e quanto altro, non soltanto il CAF. Questa è l'idea di una parziale costituzione di organismo di indirizzo che deve essere però obbligatorio. Cioè, se faccio una delibera sugli orari, una cosa che ci ha fatto soffrire col CAF sui sabati e quanto altro, gli orari prolungati, se faccio una delibera di quel comitato, questa delibera deve essere cogente. L'ultima, visto che c'è qualche secondo in più, visto che Gigi mi ha chiesto dei soldi, facciamo anche i complimenti. L'accordo 28 settembre è stato gestito ottimamente dalla FNP nazionale insieme con la CISL, però insieme, perché se non partiva la FNP con la manifestazione di maggio, con la richiesta perentoria e con la piattaforma che abbiamo costruito, non si realizzava né l'accordo né i passi successivi. Che fare oggi? C'è la prosecuzione che deve essere mantenuta, ovviamente, perché è una, non chiamiamola concertazione perché è esagerato, però è un vero passo perché ci si capisca da entrambe le parti. Lo so che chiedere gli 80 euro anche per i pensionati costa una barcata di miliardi, però tu mi devi spiegare quanti soldi sprechi dell'amministrazione, quanti ne possono ritornare in che modo possiamo riorganizzare anche il fisco in modo che sia più leggibile e più leggero soprattutto. In che modo noi abbiamo fatto la proposta, che è quella fatta con la raccolta firme dell'assegno per il nucleo familiare per tutti, anche per i pensionati ovviamente, che oggi non prendono assegni familiari se non in particolari condizioni di disabilità dei familiari. Cosa vuol dire questo? Che messaggio forte deve essere: basta con i bonus, basta. Gli 80 euro vanno bene, ma non vanno neanche più bene, perché si danno anche a due persone che in famiglia hanno 24.000 euro di reddito, chi ha 30.000 da solo non li prende, specie se è pensionato. C'è l'assegno familiare, c'è il bonus bebè, c'è il bonus di mio nonno e di mia nonna. Non è giusto questo sistema, perché la gente ti viene nella zona, nelle 35 leghe, e ti chiede: a me mi spetta o non mi spetta il bonus? Uno Stato decente deve dire: quanti siete in famiglia? Concetto del nucleo familiare. Se ci sono disabilità, quanto prendete con l'ISE? Non di reddito, perché io ho poco reddito, ma ho la cascina a casa. Bravo. Quando prendi l'ISE, porti la certificazione, così almeno facciamo guadagnare anche il CAF, l'INAS, e in questo caso, in base alla tua ricchezza o povertà vera e legittimata, certificata, prendi un assegno, che se è assegno lo prende anche l'incapiente, perché l'altro problema, vi ricordate, è questo: con la detrazione l'incapiente rimane senza. Poi, che sia un assegno o che sia un'altra cosa, l'importante è che chi è incapiente, perché è una delle massime ingiustizie, il più povero non prende neanche l'assegno familiare. L'assegno sì lo prende, ma non prende né gli 80 euro né le altre compensazioni. Questo è il metodo, secondo me, non la faccio lunga perché ci siamo capiti, cioè una trattativa seria in cui da entrambe le parti capiamo quanti sono i soldi a disposizione, quanti ne possiamo prendere dall'evasione e dalla lotta alla corruzione, e quanti soldi vengono investiti sulla vera povertà e sulle famiglie, in un modo razionale, quello che spiegavo prima. L'ultima, ci vuole il cuore, oltre all'intelligenza. Si dice troppo spesso che la gente si iscrive se c'è il 730 gratis o non gratis. Non può essere questa una organizzazione che viene da un mondo, si ricordava prima, degli anni dove abbiamo conquistato diritti, legittimità, siamo entrati nella cittadinanza sociale. Vi ricordo, c'è una frase che cita sempre il Papa, che è l'unico rimasto di sinistra forse nel nostro paese e nel mondo, che è la fratellanza. Non è una parola sbagliata. I primi socialisti, la prima internazionale, si chiamavano fratelli, poi è nata la parola compagno, ma non ce l'ho né con l'uno che con l'altro. Ce l'ho con un fatto, ricordo, visto che non si fanno citazioni importanti, io cito Endrigo, una canzone che diceva, visto che siamo tutti fratelli, diamoci la mano. Giro tondo intorno al mondo, se tutti i ragazzi, noi siamo ragazzi, i ragazzi del mondo si dessero la mano, sarebbero marinai e poi si farebbe la pace e quanto altro. I muri non ci sono soltanto in Messico, ci sono anche nel condominio, ci sono sotto casa, c'è chi non può vedere l'altro perché una volta era meridionale, adesso è nero, e magari anche soltanto perché se l'Imperia non è di Genova, per citare i casi esterni a noi. I muri, se devono essere abbattuti, ci deve essere questo nuovo sentimento basato su questo: darsi una mano, giovani e anziani, e noi come FNP, come pensionati, possiamo essere il fulcro e la concentrazione di questa idealità. È una idealità che non ci può mancare nei nostri congressi e nella nostra vita. Grazie.